in fretta, ma i ricordi emergono e riportano là quando eri piccolo e così innocente, in un mondo di fantasie perse in un niente. Col passare del tempo lasci quel modo di essere, al modo adulto così diverso da vivere, due mondi distinti e paralleli, come sogno e realtà, belli e crudeli, come i due tempi di un film di successo, ma la sceneggiatura non è lo stesso. Ricorderai ogni istante della tua vita, rimpiangerai qualche cosa che non è finita, sì, vivrai andando avanti, è il tuo destino, ma non far morire mai il tuo essere bambino. Ricordo i bei tempi delle sale giochi, quando con gli amici guardavi i fuochi, quando pensavi a ciò che saresti diventato, ora verso lacrime per riavere un po' di passato. Ricordo quante stati dietro le ragazze, poi con la Vespa quante serate pazze, in attesa dei 18 e avere la patente, ma una volta presa non è cambiato niente. Mi mancano i quattro calci al pallone, il giocare a nascondino in qualche gavettone. Ricorderai ogni istante della tua vita, rimpiangerai qualche cosa che non è finita, sì, vivrai andando avanti, è il tuo destino, ma non far morire mai il tuo essere bambino. Il primo Nintendo con il Super Mario per ognuno di noi era necessario, e non c'era il gioco online o lo smartphone, per noi era porno, pesichisti e Sharon Stone, i bei film horror dopo festival bar, Michael J. Fox e Stallone, le nostre star. Il computer allora lo avevano i benestanti, per il basic ed os eravamo troppo ignoranti. Ho sempre amato la musica e fare un gruppo mio, ma è rimasto un bel sogno tra me e Dio. Ricorderai ogni istante della tua vita, rimpiangerai qualche cosa che non è finita, sì, vivrai andando avanti, è il tuo destino, ma non far morire mai il tuo essere bambino. Troppe cose ho vissuto, tante mi mancano ancora, i tempi migliori erano i 90 all'ora, la dance coronata blizz, MC Cappella, vissuti in disco amici e tipetta più bella, poi fai conti col futuro, il presente sta già andando, ti sposi, lavori e del resto cosa stai facendo, i tuoi sogni sono lì, hai il coraggio di farli uscire, di a te stesso un sì, non ti devi punire, la vita non è rimasta.